sempre 87,9, sempre Radio Onda Rossa. Madonna, che pezzone. Ci abbiamo messo pochi minuti a fare quello che avevamo promesso, quindi velocissimi. Quantifica pochi, dai. Quindi diamo il benvenuto a Giancarlo, che è un compagno che sta al telefono con noi. Ci senti? Sì, buonasera a tutti. Ciao Gianca, ciao. Buonasera, ciao. grazie insomma del tempo che ti rubiamo, proprio ci stai dedicando, perché insomma volentieri, non c'è problema. Diciamo, cerchiamo di stendere un velo di leggerezza in questo pesante momento tetro e scuro, quindi ci proviamo. E noi insomma, appunto, come ti dicevo prima, siamo una trasmissione che cerca di dare un punto di vista un po' più leggero, insomma. Anche sì, in genere, magari, diciamo che ci proviamo, poi ci si prova, ecco, poi tante volte non ci riusciamo, molto spesso, e anche perché insomma gli argomenti insomma sono quello che so, e quindi è difficile passare due risate a cuore leggero, perché te ne vengono tante amare soprattutto, e pure in questo caso insomma ce ne vengono da faccine diverse, insomma de risate. Ma guarda, se posso dire una cosa che magari, cioè, ovviamente insomma un po' è difficile, come dire, trovare il ironia, avere insomma quello spirito per poter stare un po' leggeri, però un elemento di leggerezza già potrebbe essere, rispetto a questa cappa provocata dalla guerra e da questa situazione, ma allo stesso tempo anche dall'informazione, che è praticamente univoca, letteralmente univoca e martellante, in cui tutti dicono tutti le stesse cose, insomma. Già provare ad aprire qualche varco, a ragionare un po' più serenamente per quanto è possibile, non sarà magari ironia, ma insomma già un momento un po' più un tentativo di alleggerire questa cosa. No, ma c'hai veramente ragione. Insomma, io so uno che di solito non lo fa, però in questi giorni, diciamo che un po' per ansia, un po' per necessità, insomma, mi sono incastrato a guardare qualche talk show, più di qualche talk show, e è imbarazzante come hanno paura di parlare della NATO. C'è proprio paura. Sì, guarda, uomini e donne non ne parlano mai della NATO. No, visto, cioè, nel senso, la prendono proprio totalmente, cioè, è proprio un argomento che non se ne può parlare, dobbiamo stare attenti. Perché la NATO è buona, no? La NATO è buona, esatto. E non si può contraddire. Sai come si chiama la nostra puntata di oggi, Gianca? Sì. La NATO puzza. E quindi è proprio il live motive della giornata. Quel detto non detto, diciamo. Sì, esatto. Quella cosa che si lascia così intravedere, qualche qualcosa. Vabbè, dai, su, bando alle ciance. Serietà. Sì, torniamo un attimo sul pezzo. Faccio un po' un. Guarda, ne parlavamo prima. Purtroppo la prima notizia è piuttosto inquietante, ma come detto, va tutto verificato. E cioè. Pare che ci sia stata luce verde, appunto, come viene definito, della NATO all'utilizzo dei jet dei paesi che aderiscono alla NATO per l'Ucraina, quindi insomma l'Ucraina potrà usare questi aerei. Roba di l'ultimo minuto, proprio uscito qualche minuto fa questa cosa qua. Considerato che Putin ha già fatto sapere che considera tutta una serie di azioni un vero e proprio atto di guerra, compreso quello della fornitura di aerei militari, evidentemente forniti all'Ucraina. Si parlava, ho sentito oggi, insomma, che arriverebbero dalla Polonia su garanzia degli Stati Uniti, che poi gli aerei che la Polonia fornirebbe all'Ucraina sarebbero rimpiazzati in Polonia da altri aerei dati dagli americani. Quindi un giro così. Non vi lasciamo senza, tranquilli. E anche della serie che comunque appunto. No, ma diciamo che c'è un modo per aggirare i diktat di Putin, sono piuttosto, come dire. Farlocchi, diciamo infantili, perché sì. Insomma se ne accorge anche un bambino di 5 anni che è un'operazione farlocca, come dicevi. E poi se vogliamo, cioè, nel senso che sembra una banalità, però insomma è sempre meglio ricordarlo che fino adesso insomma non sono stati lanciati ordigni dagli aerei o da cose del genere, no? È sempre stata roba che è partita tramite missili. E oggi è stato abbattuto un caccia. Cioè, nel senso, quindi questa qua potrebbe essere vista. Un caccia russo, però sì. Diciamo che per esempio quei 70 chilometri di di carri armati che qualche giorno fa, insomma 60 chilometri di carri armati incolonnati in direzione Kiev, l'hanno potuto fare proprio perché non c'erano gli aerei, altrimenti certo, li avrebbero colpiti, insomma. Sì, certo, insomma, allora, 60 quello che c'è, una delle discussioni, faccio un rapidissimo aggiornamento sulle cose. Innanzitutto, oltre a questo, Mariupol, appunto, dove di nuovo anche oggi sembrava che fosse possibile l'evacuazione dei civili ed anche oggi ci sono stati problemi ed è tutto molto, come dire, è tutto bloccato. Ovviamente partono le accuse reciproche tra russi e ucraini, tra i filorussi, separatisti filorussi e gli ucraini e le milizie ucraine, quindi non si sa bene, è difficile insomma riuscire a verificare queste cose, ovviamente questa cosa, di chi sono le colpe di questo mancato, di questa mancata evacuazione, peraltro concordata, e anche con i civili che stanno morendo, forse non si saprà nemmeno la fine della guerra, insomma, perché veramente questa è classica informazione di guerra. I separatisti filorussi però dicono che le scorte alimentari dureranno al massimo altri due giorni, l'acqua e l'elettricità non sono, come dire, non sono fruibili in questo momento dalla popolazione, nei dintorni di Mariupol, di questa città che l'abbiamo detto tante volte, insomma è strategica, forse chissà se lo è ancora, visto che è precipitato tutto, o almeno era strategica durante questi ultimi 8 anni, perché era uno dei punti di raccordo tra la Crimea ormai russa e la frontiera russa, immaginando una linea che unisce tutta, appunto, dalla penisola crimeana fino alla frontiera lungo il Mar d'Azov, per la Russia sarebbe stato, cioè potevano andare tranquillamente in automobile dalla Crimea, dalla frontiera russa, mentre invece nella situazione pre-guerra sarebbero dovuti passare per l'Ucraina oppure attraverso il mare. Sì, unendo questo pezzo di Mariupol avrebbero unito questa parte di territorio. Pare che comunque fuori le abitazioni, i villaggi, i paesi intorno a Mariupol siano riusciti ad andarsene, cioè le persone siano riuscite ad andarsene. È dentro la città di Mariupol che invece, insomma, è tutto bloccato e non si sa chi spara e chi non spara, insomma. Questa è la situazione a Mariupol, che è ancora gravissima. L'altra cosa è Ti volevo chiedere, perché appunto dicevi che nemmeno oggi è stato possibile riuscire a far uscire le persone con questo diciamo corridoio umanitario, i russi sostengono che siano i nazionalisti ucraini che stanno impedendo ai civili di recarsi presso i corridoi umanitari. Secondo te sta cosa è realistica? Non lo so, nessuno può saperlo, e io non lo so, come dire, forse è una deformazione professionale mia, specialmente in guerra è bene avere sempre una cautela massima, perché ognuno lo fa, anche l'Occidente, insomma, lo stiamo vedendo insomma qui sulla televisione italiana, quindi ognuno ha la sua versione, ognuno, basta postare una virgola per dare l'impressione che sia vera una versione piuttosto che un'altra, basta una virgola spostata, quindi andrei cauto su tutto. Chiaramente, ovviamente, nessuno vuole accollarsi la colpa di impedire a dei cittadini, insomma alle persone inermi e civili di Mariupol di uscire e scappare da quella città, e quindi ognuno accusa l'altro, però vai a sapere qual è la verità, insomma al momento è difficile stabilirlo. L'altra cosa invece sono le manifestazioni a Mosca, dove almeno fino a 20 minuti fa c'erano stati 4.300 fermi in tutta la Russia. Siamo a 4.009, adesso siamo arrivati a 4.009. Siamo arrivati a 4.009. Sì, 4.990. Diciamo 5.000. Diciamo che la differenza rispetto ad altre volte era che al netto dei titoli che ha sempre fatto la stampa italiana e occidentale, cioè chiamava arresti quelli che erano fermi, poi in realtà qualche arresto, diciamo su 1.000 persone qualche decina veniva arrestata effettivamente, cioè veniva posta in stato d'arresto. Ora con questa nuova legge che vieta di usare la parola guerra e che considera reato penale addirittura fino a 15 anni di carcere per chiunque dica pubblicamente cose non vere, considerate fake news dalle autorità russe, rispetto alla operazione speciale militare, non si può nominare la parola guerra, non so questi fermi se saranno così leggeri come in passato. Si parla di 15 anni di carcere. Sì, anche fino a 15 anni di carcere, 3 anni di carcere massima per chi semplicemente chi invita a porre sanzioni alla Russia. Sì, perché c'è un po' veramente un impazzimento dentro. Per chi ci arriva dentro... poi, perché poi arrivano pure notizie di appunto pulmini che spostano manifestanti catturati che vengono ribaltati, che si ribaltano per strada. Arrivano pure c'è stato questo incidente a Kamovnichi, sono stati però feriti lievi, fortunatamente. Mi sembra 6 manifestanti e 3 poliziotti. E quindi sì, è successo anche questo praticamente. E uno vedi, cioè in mezzo. Ma, insomma, ma gli incidenti continuano a succedere anche in guerra. Cosa sì, volete? Sì, no, perché in mezzo sempre diciamo, a pezzare. Speriamo che gli altri. No, questa cosa, mi sembra che fossero 26 le persone fermate, 6 feriti. Speriamo che gli altri 20 dopo il ribaltamento siano scappati. Ecco, ecco insomma, speriamo infatti, almeno esatto. Questo. No, però perché fa... Guarda, c'è volevo solo dire questa cosa di questo sito incredibile che io ho avuto già modo anni fa di consultare quando ero stato a Mosca durante alcune manifestazioni, si chiama obdinfo.org, che fanno un lavoro incredibile. È un'organizzazione, come si dice, per i diritti umani, ma in realtà fa tantissime altre cose. È stata inserita nell'elenco degli agenti stranieri dalle autorità russe soltanto qualche settimana fa, quindi ha molta poca abilità, ma in Italia si legge, ovviamente è in russo, e fanno un lavoro di monitoraggio nelle manifestazioni, in tutte queste manifestazioni quasi sempre non autorizzate, che ci sono state in questi anni a Mosca, per cui riescono a non solo a dare l'elenco perfetto e aggiornato in tempo reale dei fermati, ma a fornire nome e cognome dei fermati, numero di telefono, chiaramente è una cosa presumo come dire autorizzata dagli stessi fermati, perché no, altrimenti sarebbe assurdo, nome e cognome, numero dell'avvocato e persino il commissariato dove vengono portati. È un lavoro incredibile che fanno non solo a Mosca ma in tutta la Russia. Io prima l'ho consultato per vedere se c'era qualcuno che conoscevo, ho guardato fino a un certo punto, fino a dove ho guardato non c'erano persone che conoscevo. Però questo è veramente è un lavoro che in Italia, ma credo in Occidente, non esista letteralmente, incredibile. Cioè a leggere questa cosa sembra, non so come facciano, non so come avranno una serie di persone sparse per tutta la Russia, hanno questa capacità di aggiornare in tempo reale nomi, cognomi, numeri di telefono, avvocati e persino il commissariato dove vengono portati. Questa è OBD Info. Pazzesca. Mamma mia, spionaggio, questo è un spionaggio antisistema. Non lo so, bellissimo. No, ma non credo. No, veramente, se devo dire, insomma, al di là di come uno la pensa, molte delle persone che scendono in piazza, diciamo, hanno raccolto l'invito di Navalny dal carcere di manifestare. Navalny, diciamo, è un personaggio molto, molto complesso a voler essere buoni, però ciò non toglie che, insomma, non è che uno può adesso sparare addosso ai manifestanti che spesso sono ragazzi, sono giovani, alcuni di loro addirittura erano dissidenti dei tempi dell'Unione Sovietica, cioè ci trovi la vecchietta che devo dire di cui va riconosciuto anche il coraggio, insomma, di andare infatti in piazza e trovarsi strattonata da questi energumeni che sono gli OMON. Insomma, la polizia poi è uguale un po' dappertutto, quindi non è che la polizia russa è più brava. Certo, non diciamo che non è più brava quella italiana, posso dire che alle manifestazioni a cui ho assistito in Russia, cioè a Mosca, la polizia picchia meno che in Italia, si caricano, si incordonano, portano via migliaia di persone, poi lo ripeto, la gran parte di loro viene rilasciata dopo qualche ora, ma picchiano di meno e addirittura in Russia hanno approvato pochi giorni prima della guerra, forse un mese fa, una legge contro la tortura in carcere compiuta dalla polizia, una legge che in Italia non c'è, cioè c'è una legge fatta sotto il governo Renzi che è proprio all'acqua di rose. Mi ricordo Ilaria Cucchi che ci sperava molto su questa legge e che però l'ha bollata come una vera e propria finzione, cioè una cosa che non serve a niente. Questo non è per dare un po' un cerchio, siccome diciamo in questi infatti, giorni di follia. Proviamo un attimo così. No, ma infatti, mo che dici questo? Mi fai pensare, mi fai pensare. Sì. Fai il paio, insomma. Sai, il racconto con... del bene e del male, del cattivone e del buono della fiaba, non è che ci piace molto. No, assolutamente no. Ma infatti, mo che hai parlato, insomma, di questa organizzazione che c'ha questa qualità di dettaglio nell'informazione, mi fa pensare anche che ci siano, insomma, delle talpe all'interno del sistema, perché insomma io non lo escludo. È una cosa abbastanza chiara, questo io non lo so. È chiara, no, mica è tanto chiaro, insomma. Io, secondo me, cioè questa è una mia macchinazione, diciamo, queste i miei viaggi fantascientifici. Ce ne sono anche troppe, capito? Però, voglio dire, per sapere nome, cognome, commissariato, sì, saranno sparsi in tutta la Russia. No, lo sai qual è la cosa curiosa? Che nonostante la brutalità della polizia russa, poi almeno su alcuni in alcuni passaggi ha delle maglie più larghe che in Italia, tra corruzione. Cioè, è facile trovare persone fermate o magari che stanno sul pulmino della polizia che si fanno i selfie, non è che lo fanno per fare gli sciocchini, insomma, lo fanno perché, si fotografano, cioè, vedere, vedi, ci stanno portando via, lo fanno anche con uno spirito, come dire, un po' gagliardo, no? Di dire, vedi, insomma, quindi, mentre in Italia una cosa del genere, se ti vedono che sta a riprendere col telefonino, ti danno una manganellata sulla mano e te lo fanno cadere, insomma. Sì. Questo non significa più di tanto, però voglio dire che il sistema per alcune cose in Russia è un po' diverso, come probabilmente sarà diverso anche in altri stati rispetto ad altri, quindi diciamo noi abbiamo ovviamente l'unico esempio del comportamento della polizia qui in Italia, su certe cose ci sono alcune differenze, persino nella cosiddetta brutale Russia, insomma. Una cosa che volevo dire, se mi è permesso, è questa, c'è una tendenza che vedo un po' sui social, ma non solo sui social, da parte di quelli che dicono, gente anche di sinistra, insomma, che dice, che invoca l'invio di armi all'Ucraina perché appunto la situazione lo richiede, c'è una situazione d'emergenza, quelle persone si devono difendere. E quindi qualcuno fa il paragone con i partigiani italiani della Resistenza. Assurdo. E della Seconda Guerra Mondiale. Adesso, no. al netto della, diciamo, dell'elemento ideologico della questione, possiamo dire in Ucraina sono i nazisti, ma non sono tutti nazisti, perché pure questa è veramente una semplificazione che non aiuta a capire, ecco, non perché uno voglia, non aiuta certo, a capire. Certo, come in Russia non so tutti i filo Putin. Esatto. E quindi in realtà è per un problema veramente pratico, e cioè in Italia i partigiani hanno fatto la loro eroica resistenza, perché va detto senza, diciamo, senza retorica, però è vero pure che il contesto era completamente diverso, e c'erano gli eserciti alleati che poi hanno fatto pagare questa cambiale in bianco ai paesi che hanno liberati, che la stiamo pagando ancora adesso, ma nemmeno quello è importante. I partigiani, non abbiamo la controprova che avrebbero vinto da soli, questo va detto. C'erano pure gli americani tra gli alleati, e anche questo va detto perché è storia, lo sanno tutti, insomma. Quindi non c'era la minaccia nucleare, non c'era. In questo caso noi abbiamo una situazione in cui un paese, la Russia, che ha già allertato le flotte del nord dell'Oceano Atlantico che hanno i missili, alcuni nucleari, l'hanno portati in posizione di combattimento già da qualche giorno. Sì, sì, ma infatti questa quindi nessuno potrà intervenire sul campo a fianco degli ucraini, comunque la si pensi, bravi, cattivi, però questo non accadrà. Quindi il paragone da un punto di vista pratico, non ideologico, è praticamente ridicolo. E ho notato che insomma in questi giorni era uno degli argomenti più gettonati poi da gente che sta sul divano esattamente come me, però insomma diciamo almeno non mi lancio in queste azzardate, come dire, proposte, ecco. No, infatti io questo è un argomento su cui ho riflettuto anch'io effettivamente, perché quando si parla di resistenza, di sostegno alla resistenza, di invio delle armi a chi combatte per la libertà, insomma sono cose delicatissime che effettivamente richiedono molta riflessione. Io sinceramente mi sono fatto un'idea molto, molto personale, nel senso che non credo che il problema sia se sia giusto o meno mandare le armi a chi resiste, perché questo è un assunto che potremmo essere tutti d'accordo. Credo che però vada nello specifico, si debba andare a guardare bene, molto attentamente, che tipo che resistenza è, chi combatte nella resistenza, quanto c'è di vero nella narrazione imperante, cioè la resistenza ucraina sono tutti nazisti, non è vero niente, il popolo ucraino si sta ribellando per una circostanza giusta, oppure è una come dire, anelano a una situazione che è molto poco come dire, è una brutta situazione. Secondo me non sono tutti uguali gli scenari di resistenza, come dire, per quanto mi riguarda non credo che gli scenari di resistenza siano tutti uguali. No, assolutamente, che debba essere sostenuti. È un dato di fatto che non so così, no, assolutamente. Guarda, però io quello che richiede, quello che vorrei rivendicare è quello che viene ormai stigmatizzato, perché poi insomma andiamo avanti per luoghi comuni e i social accelerano, come dire, l'invecchiamento dei luoghi comuni, no? Ci avete fatto caso, qualunque cosa grazie ai social che ripetono in continuazione poi arriva, diventano luogo comune, poi si crea il contro luogo comune, poi si invecchia pure quello e tutto quanto. Diciamo, volendo fermare questa spirale dei luoghi comuni, io risponderei il benaltrismo, che è qualcosa che viene stigmatizzato ormai, tu stai facendo del benaltrismo, si fa sui social, si dice in televisione. In realtà, e quindi diventa, no, un elemento di blocco quasi, no? Ti metto proprio questo cuneo nel tuo ragionamento e tutto quanto, e ti blocco perché tu stai facendo benaltrismo, che come è noto non si fa. E invece me lo rivendico, cioè il benaltrismo non è sempre qualcosa per parlare d'altro, ma specialmente in un caso come questo, specialmente con gli attori che ci stanno in campo, da una parte sempre gli stessi, gli Stati Uniti e la NATO, non si può non considerare tutto quello che è accaduto in questi ultimi 20 anni, ma forse anche prima, ripeto, noi stiamo pagando ancora la cambiale della liberazione della Seconda Guerra Mondiale, l'abbiamo pagata a carissimo prezzo, sì, proprio sì, ma noi in Italia, a voi, certo. Con la strategia della tensione, i morti. Ma siamo una base americana, siamo soprattutto. Ma quello è in parte, ma quello che ha sconvolto più di una generazione degli anni 60 e 70 è stata quella della strategia della tensione, dell'imposizione a tutti i costi di una linea politica filonato a suon di bombe insieme a fascisti, servizi segreti e americani ovviamente. Queste cose che sono risapute ormai da, le danno un po' a tutti, in realtà io l'ho trovata prima della guerra, ma guarda un po', proprio sul il giornale, uno dei giornali più filonato di questo periodo, cioè Repubblica, che così ha avuto un sussulto evidentemente, o forse dovevano riempire uno spazio, e hanno fatto una mega inchiesta sulla la strage di Brescia, di Piazza della Loggia, col titolo che campeggiava e diceva che appunto la pista di quella strage portava ai fascisti, alla sede NATO di Verona. Insomma, voglio dire, noi abbiamo avuto veramente due generazioni violentate proprio qui in Italia, proprio noi, e quindi onestamente non è che si può dimenticare. Questo per quanto riguarda il passato. La storia più recente racconta di una serie di guerre assurde fatte dalla NATO, ma molto dalla NATO e dagli americani, anche ovviamente senza l'ONU, c'è stata quella in Afghanistan che ha avuto, ma insomma si sa, l'ONU poi non è che conti moltissimo. Ma altre sono state fatte senza nemmeno, diciamo, il permesso dell'ONU, senza passare per l'ONU, come quella in Iraq, e altre guerre, proxy war, come si chiamano, quelle in Siria, in Libia nemmeno tanto proxy, visto che l'hanno bombardati direttamente, e quindi non si può non mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con una situazione che va avanti da anni. Non è che una mattina Putin si è svegliato, per quanto almeno per come la penso io, insomma, questa invasione è stata una follia e anche una barbarie, però è accaduto qualcosa e questo non va dimenticato. È accaduta tutta la storia dell'allargamento della NATO nell'est Europa, diciamo c'è stata tutta una trattativa negli anni precedenti per cui si chiedeva che la NATO ponesse un limite al suo allargamento perché gli stati, le superpotenze fanno questo, cioè le superpotenze tutte, americani per primi, non vogliono nel loro cortile di casa paesi ostili. Ma d'altronde come la Russia, come d'altronde tutti quanti gli altri. Esatto, ma è normale, esatto. È normale che sia così. Quando è qualcosa che è al di fuori dei nostri, no, della nostra agenda politica, cioè non è la giustizia, certo, sociale, la lotta di classe, tutte queste cose qua. Quando non il gioco in agenda su queste cose. Certo. Però appunto almeno una lasciatecela, non prendeteci in giro, almeno questa, insomma, è proprio una richiesta proprio minima. E quindi è altro che benaltrismo, in realtà è contestualizzare le cose che succedono, altrimenti noi ci limitiamo, come sta limitando la stampa mainstream, al pietismo, all'eroismo d'accatto, diciamo, e ad una narrazione che nemmeno le favole per bambini di 5 anni, insomma, e questo non va bene, è un'offesa veramente, è un'offesa all'intelligenza altrui, è qualcosa che, certo, che non si può accettare, insomma, certo, e quindi ecco, questo io volevo dire, mi rivendico il benaltrismo. No, ma infatti io sta cosa nell'epoca dei social, dove tutto è in tempo reale, il fatto che questa sia una delle prime guerre che viene scandita secondo per secondo, cioè in tempo reale, attimo per attimo ci stanno notizie, tweet, cose sulla guerra, in TV le reti all news, ma attenzione, stanno sull'Ucraina H24, questa cosa secondo me fomenta questo diciamo sta bulimia di protagonismo. Sì, ma poi alla fine non dicono nulla, e la gran parte delle notizie, che peraltro vengono solo da una parte, sono tutte da verificare, anche se vengono dalla parte tra virgolette buona, perché è informazione di guerra, e mai come in questo caso qua ci siamo trovati in questa situazione. Io penso che voi vi ricordate l'affermazione che ha fatto, non so se l'ha scritta in un articolo, forse in televisione, Federico Fubini, diciamo uno che peraltro non ha nemmeno le physique du rôle, diciamo, del Rambo combattente, insomma. Esatto. Che è uno che un signore che sembra uscito l'altro ieri dalla Bocconi di Milano, e che ha detto che va rispolverato il valore di avere l'onore di avere un caduto di guerra in famiglia, come accadeva una volta. Allora, siccome la questione che stanno una delle questioni in ballo è pure la superiorità presunta della civiltà occidentale, si combatte anche per questo da parte loro, ecco, diciamo, poi alla fine, insomma, non è che si discosta molto da quelli che loro demonizzano, insomma, perché una cosa del genere, a parte che è un po' ridicola e grottesca, è quasi tragicomica, però poi alla fine è un punto di vista guerrafondaio innanzitutto, e anche patetico, cioè veramente è qualcosa che rimanda al risorgimento. Mettiamoci tutti l'elmetto, perché poi avremo un nonno da piangere e da onorare caduto in guerra, ma insomma, diciamo, siamo nel 2022, sentire queste cose, no, anche perché se diciamo a me quello che diciamo, anzi a noi come trasmissione, quello che ci piace un pochino fare, diciamo, è pure buttarci in qualcosa che prova a vedere quello che da che parte si va, e visto che comunque ormai siamo avanti da 10 giorni con questa storia, che le notizie che ci arrivano sono quello che so, e che comunque invece tra compagni e tra compagne le discussioni vanno avanti, è giusto innanzitutto fa anche un e te lo chiediamo di nuovo a te questa cosa qua, di fare un aggiornamento su quello che sta succedendo, perché sappiamo che oggi insomma sono state giornate di manifestazioni importanti in Russia, eppure secondo me cerca anche di capire da che parte si va, perché dopo 10 giorni che stiamo così su questo piano qua, sembra pure che insomma da un momento all'altro le cose peggiorano in maniera precipitosa. Diciamo che su tutta la guerra ci sono, secondo me, proprio dei lati oscuri che chissà se li sapremo mai e quando li sapremo, anche da parte russa. Avevo letto qualche giorno fa un articolo di una giornalista russa, Farida Rustamova, una molto informata, che ha ricostruito chiaramente perché non era presente, ma un giornalista, se è bravo, può anche ricostruire prendendo un po' di cose e cercando di dare un quadro coerente e anche plausibile, insomma, senza inventarsi niente, ha ricostruito quelle che sono state le ultime ore prima dell'attacco nelle stanze del Cremlino, insomma, e praticamente da quello che si è capito la decisione di attaccare la sapevano pochissime persone, quindi lo stesso Putin, il ministro della difesa Shoigu e quello che è il rappresentante del ministero degli interni, ma che in questa occasione ha un ruolo anche nella guerra, Gerasimov, e gli altri non sapevano niente. Il titolo del pezzo di Farida Rustamova era abbiamo gridato dentro di lei, tra noi e noi abbiamo detto ma porca miseria, in realtà la parola era pizdiez, che in russo è una parolaccia, insomma, stava proprio nel titolo anche puntata, però si capiva che era pizdiez, che è un, diciamo, un'espressione di costernazione massima, che può andare dal porco qua, porco là, a cazzo, mo che facciamo? E questa era stata la reazione di quelli che hanno ricevuto questa notizia all'improvviso. La Rustamova racconta che appunto nei corridoi questi sono andati là e sono messi le mani nei capelli, hanno detto oddio, cioè, mo... E quindi sui piani di Putin, cioè cosa, cioè come uno si potrebbe chiedere, come fanno a immaginare le conseguenze di questa azione? Le conseguenze sono pesantissime, cioè non si è mai visto un assedio economico, finanziario, culturale, politico e quant'altro come quello che è stato messo in piedi in pochissimi giorni dal mondo occidentale verso la Russia. Pagherà delle conseguenze gigantesche. Adesso leggo che siccome non possono uscire soldi dalla Russia, visto questa situazione, si dice che praticamente tutte le riserve delle multinazionali straniere che hanno dei fondi in Russia sono tutte bloccate e corrisponderebbero tipo a 1.000 miliardi di dollari, quindi secondo, però è tutto da verificare. Ma in ogni caso le conseguenze sono anche per il dopoguerra. Quindi ovviamente, ma certo, so anche per tutti quanti i vari stati della NATO, cioè, è una cosa che comunque va a cambiare in maniera irreversibile e drastica. Penso per la Russia, esatto, anche per la Russia, esatto, di più. Esatto, ma anche per l'Italia, anche per noi come italiani, di tutti, insomma, cioè si ritrova che non possono pagare più con le carte, che in Russia è una cosa molto frequente, pagare con la carta, fare la spesa online, sono scappati tutti, cioè tutte le aziende di praticamente qualunque settore è fuggita dalla Russia, e quindi siamo in un isolamento terribile e gli effetti si sentiranno dopo, non subito. E se ci sarà un dopoguerra, diciamo da questo punto di vista Putin non si sa come andrà, perché veramente non si può dire. Infatti prima stavamo riflettendo su questa cosa, praticamente Putin ha fatto all in, cioè si è giocato tutto, cioè se Putin perde sta guerra è rovinato. Ma se tu ti giochi tutto in una cosa del genere, sicuramente devi aver calcolato tutto, a meno che tu non sei suicida. E Putin è un autocrate antipatico, ma non è uno scemo, o almeno non l'ha mai dimostrato. Nella guerra in Siria, comunque la si pensi, in qualche modo è riuscito a fermare una carneficina terrificante per una situazione che si era incartata, in cui stavano tutti contro tutti, bene o male, l'autocrate Putin, per i suoi interessi, per carità, però è riuscito almeno a fermare quella carneficina o a rallentarla tantissimo, qualcosa ancora continua, ma non c'è paragone fino a qualche anno fa. Quindi ha saputo sempre muoversi molto bene per i suoi interessi sullo scacchiere internazionale. Questa sembra un'azione sconsiderata, è difficile crederla tale, ma questo è uno dei punti oscuri. Quindi non conoscendo, non riuscendo ad avere un quadro più chiaro, e ti posso assicurare che non ce l'ha nessuno, anche veri russologi, diciamo, non avendoci parlato in questi giorni, ci sono veramente dei lati oscuri su questa cosa, al netto delle cose che sappiamo, va bene, il Donbass. Alcuni dicono che siano le conseguenze del Covid, cioè che lui... Sì, questa vabbè, è ma lì siamo a livello di dagospia, stiamo, anche se i giornali mainstream stanno già... Non ho capito, perché lui ha avuto il Covid, cioè sono... Sì, no, dice una delle tante cazzate impazzito. Che gira su sta cosa, è che queste siano... Così si chiude il cerchio, no? Un'emergenza, è là. Altra, una emergenza che ha provocato l'altra, però stiamo un po'... Beh, no, diciamo che comunque quello che ha detto qualche giorno fa, secondo me, insomma, che tutte quante le varie tassazioni, non solamente quelle dichiarate, ecco, adesso negli ultimi giorni in tempi di guerra, ma anche quelle degli ultimi mesi, insomma, per lui erano già una dichiarazione di guerra. Comunque già siamo... Sì, ho capito, però mettere poi sul campo i militari è un'altra cosa. No, certo, no, ma figurati, nel senso io sto... La guerra è anche la simulazione di guerra, è anche la minaccia di guerra, è anche la piccola provocazione. Quando superi quella linea rossa, devi essere... Giancarlo, ci mancherebbe, guarda... Devi essere molto sicuro di quello che fai, altrimenti le conseguenze sono... imprevedibili per tutti, certo. Per il popolo russo. Vabbè, per il popolo russo, insomma, in ogni caso, come per tutti quanti i popoli di quelli che verranno coinvolti, che sono già coinvolti, insomma, la previsione è chiara, sarà quella, insomma, di problemi che resteranno anche sotto il profilo economico, insomma. Se quest'anno già stavamo a buon punto della ripresa, insomma, il PIL stava quasi per riacchiappare il pre-Covid, insomma, una guerra sbagherà un'altra volta tutto quanto. No, infatti c'era l'ultima domanda che volevo fare proprio al volo, che poi che domanda è una riflessione su una constatazione che sta succedendo, cioè, e poi ti lasciamo andare e ti liberiamo da questo terribile cappio che ti abbiamo messo. Allora, il discorso, una cosa che mi ha fatto sorridere molto è il rapporto, sorridere amaramente, la questione della Bielorussia, perché praticamente, come sappiamo, insomma, la Bielorussia è uno stato in tutto e per tutto satellite, insomma, della Russia, con Lukashenko che ha mantenuto l'impianto sovietico della questione, leggevo che tutte le sanzioni che sono state fatte alla Russia potranno essere, diciamo, anche abbastanza facilmente aggirate, facendo passare tutti gli scambi con la Bielorussia a cui non sono state messe le sanzioni di nessun tipo, nemmeno sulle banche, sulle... Ma vedrà che invece faranno al contrario, nel senso, leveranno direttamente dallo SWIFT quello che gli interessa. No, vabbè, il sistema SWIFT, quella va bene, un'altra cosa, però dico, effettivamente la Bielorussia può funzionare come ponte per la Russia, no, qualora ci fosse una chiusura ancora più totale? Dipenderà da come finirà la guerra e da quali trattative faranno. La Bielorussia per adesso se la vede un po' male, peraltro la Bielorussia ha fatto per un periodo un po' un doppio gioco, perché sapeva di essere un po' dalla parte della Russia, ma è anche questo paese che si affaccia sull'Unione Europea, perché confina con la Polonia e tutto quanto, e quindi ha cercato di stare con due piedi in due staffe, un po' perché già da tempo la Russia provava a farla entrare nella sua federazione. Lui ha capito che poteva giocarsi questa carta, cioè quella di temporeggiare per ottenere di più. Poi alla fine, dopo le proteste che ci sono state in Bielorussia, si è spostato quasi completamente dalla parte di Putin, insomma. Quindi, cioè, la cosa che c'è è questa, per concludere, perché insomma, almeno ad essere chiari, mi prendo la responsabilità di quello che dico, Putin delle ragioni ce l'ha dal suo punto di vista, certo, ma anche certo. Dal punto di vista logico, perché la questione non solo della NATO ma anche del Donbass in cui sono morte 15.000 persone, lo sanno tutti, non saranno tutti i civili del Donbass, ma credo che la maggior parte sì, perché c'era un esercito che sparava e sparava verso le città, e le città erano quelle che stavano nel Donbass, e che sono state trattate, come ha detto lo stesso Putin, come cani randaggi in tutti questi anni. Queste sono state le parole di Putin. Probabilmente non sono uno stratega, però insomma a un certo punto era balenata, prima che gli eventi precipitassero, l'idea che durante le trattative che ci sono state poi dei vari paesi europei, anche degli americani a Mosca con Putin, era balenata l'idea di dire: va bene, voi non rispettate la nostra fascia di sicurezza che chiediamo, e cioè l'Ucraina ma anche la Georgia, e allora noi ci riteniamo di avere le mani libere di poter fare quello che in realtà non hanno mai fatto, e cioè ad esempio portare le basi militari russe in Venezuela, in Nicaragua o a Cuba, che li avrebbero accolti a braccia aperte, o addirittura il famoso Messico, che a un certo punto era diventato quasi una metafora scherzosa. Pensa se il Messico dovesse entrare nell'orbita russa. Poi l'altra volta il Messico è stato uno di quei paesi che non ha votato per le sanzioni contro la Russia, e questo mi ha pure sorpreso, insomma. Ecco, avrebbero dovuto sparigliare le carte senza fare questo muro contro muro tragico. Forse avrebbero dovuto prendere, come dire, fare leva su tutta la grande cultura e versatilità che la Russia si porta appresso da sempre, senza fare questo gesto brutale, che poi alla fine non basta avere ragione, le ragioni devi sapere pure farle comprendere, perché altrimenti è un attimo a passare dalla parte del torto. Ecco, forse facendo questo giochino qua e tentandoci, sicuramente il cerino sarebbe rimasto in mano all'America. Ha deciso questo, non sappiamo perché, speriamo bene, speriamo che veramente, non lo so, insomma, non so che dire, non so che sperare, speriamo che in qualche caso un barlume di luce da qualcuno venga fuori. Ma infatti io alla fine, nonostante tutto, confido, io da umanista convinto, confido ancora nell'essere umano, non so per quale motivo, ma mi ostino. Ma io so giorni che ti ripeto che è saltato tutto già. Pure l'umanità, sì, vabbè, soprattutto l'umanità. Sì, sì. Cioè, infatti, guarda, io saluterei intanto Giancarlo e ti ringrazio tantissimo. Ti ringraziamo tanto per aver fatto, insomma, chiarezza. Era doveroso, insomma, per averci aiutato. Esatto, non solo noi. Sono convinto, insomma, che tutte e tutti quelli all'ascolto, insomma, abbiano un po' più chiara la situazione, anzi un bel po' più chiara la situazione ora, insomma. Beh, diciamo, su tante cose sì, cioè abbiamo un buon punto di partenza per continuare a fare un'oretta di puntata, però sicuramente, pure come diceva Giancarlo, appunto le cose che non si sanno sono tante. Ma infatti noi ti invitiamo a continuare ad ascoltarci, se puoi, perché ci sono delle la conosco bene, insomma, esatto, assolutamente. Infatti credo che quelli che ci ascoltano conoscano, insomma, già la tua voce, soprattutto la mattina, insomma, ti sentono spesso, insomma sei una voce che ci aiuta spesso. Però insomma ti invito a continuare l'ascolto di questa puntata di Io te l'avevo detto, perché appunto ci saranno delle scottanti novità che nemmeno tu conosci, illuminatevi voi. Esatto, vedrai, questo è l'obiettivo. Anzi, sentirai. Quindi grazie, grazie a voi. Ti lanciamo un applauso spontaneo del pubblico qua in sala, che è d'obbligo. Certo. Grazie ancora. Grazie. Ciao. Dai. Ci voleva questo momento di approfondimento.